davanti a un fuoco, spettinata dal mio respiro, ed io che voglio stare con lei, mi accovaccio dietro un cespuglio a spiare quel suo silenzio. Dio quanto voglio andare con lei, ma davvero non ho coraggio, mi vergogno come uno sfregio, le pene che mostrare dovrei. Per fortuna non c'è uno specchio. Come soffia quel suo ventaglio, del suo seno sento il profumo. Io che nel suo ancheggiare vorrei imbarcarmi e do il mal di mare, ma più ci penso voglio svenire. Se penso a rinunciare per lei, io piuttosto mi taglio un dito per sfondare il suo paradiso. E invece di studiare perché, mi ripasso la notte in bianco. Io che del buio suo so tutto, siamo pioggia e fuoco, traffichiamo la notte e il giorno, abitiamo dove non siamo, via lontano. Scende piano.